Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Il nostro sonno è cambiato, lo rilevano numerose indagini che fotografano un aumento dei disturbi del sonno. Per questo gli esperti di medicina del sonno invitano a non trascurare alcuni segnali che potrebbero portare la nostra insonnia a diventare cronica. Ne parliamo oggi con il professor Luigi Ferini Strambi, direttore del Centro di Medicina del Sonno dell'Ospedale San Raffaele di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Non dormiamo più come prima, anche un'indagine che avete svolto al San Raffaele ha fotografato questi cambiamenti, ma quali sono i segnali che non dobbiamo trascurare? Ma sicuramente quello che è successo durante il lockdown, durante questo momento di restrizione, è stato quello di andare a letto sempre più tardi e di svegliarsi sempre più tardi al mattino, quindi abbiamo, diciamo, in una qualche maniera portato in avanti il nostro periodo di sonno. Questo è sicuramente stato un bene soprattutto per i soggetti gufi, quelli che tendono ad andare a letto tardi e svegliarsi tardi al mattino, però poi con il ritorno alla vita normale questo è diventato un problema. È un po' quello che succede quando, ad esempio, noi torniamo anche dalle vacanze, andiamo un po' a creare un trambusto in quelli che sono i nostri normali ritmi. E quindi sicuramente la cosa importante è cercare invece di tornare subito a quello che è il ritmo giusto, quindi andare a letto sempre alla stessa ora, che non deve essere, diciamo, troppo in avanti, ed alzarsi sempre al mattino alla stessa ora. Ogni età ha il suo sonno, professor Ferini Strambi. Tutti riprendiamo, consigli per le varie fasce d'età per riprendere a riposare bene. Sappiamo quanto sia fondamentale il sonno per la nostra salute. Partiamo da un consiglio per gli adolescenti. Gli adolescenti purtroppo tendono, diciamo così, ad essere un po' anarchici con i propri ritmi, quindi questo non va assolutamente bene. Speriamo che adesso con il ritorno alla scuola, quindi a un normale ritmo sonno-veglia, diciamo così, riescano anche a eliminare quelli che sono i problemi della privazione di sonno, perché la privazione di sonno, soprattutto negli adolescenti, si traduce poi in una migliore, diciamo così, tendenza, una difficoltà a quelle che sono anche le prestazioni cognitive, quindi questo è importante. Professor Ferini Strambi, un suggerimento per gli adulti che impegnati in questa nuova quotidianità, particolarmente stressati, e sappiamo quanto lo stress incida sulla qualità del nostro sonno. Un consiglio o una raccomandazione? Lo stress incide sicuramente, lo stress incide creandoci soprattutto problemi e difficoltà di addormentamento. La cosa importante, soprattutto per gli adulti, è quella di cercare di togliere dalla mente tutti quelli che sono i pensieri e le preoccupazioni proprio nei 5-10 minuti prima di andare a dormire, anche perché dobbiamo ricordarci che il sonno ci aiuta anche a risolvere quelli che sono i nostri problemi anche mentre stiamo dormendo, e quindi non cerchiamo di pensare a tutte queste cose particolari che ci creano poi ansia, tensione, ma cerchiamo di rilassarci. Professore, i bambini a letto alle 9? I bambini dovrebbero andare a letto presto, sicuramente non, magari non alle 9, ma non, io direi non più tardi delle 9:30, insomma. Purtroppo il carosello non c'è più, che era un famoso marcatempo che era molto importante, non ce l'abbiamo più. Bene, per oggi è tutto, vi ringrazio per l'ascolto e l'attenzione, e vi ricordo che sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute, come ogni giorno, trovate la nostra video intervista. Oggi parliamo di mal di testa, consigli, raccomandazioni e qualche trucchetto per liberarci dal dolore. Buona giornata e buon weekend da Nicoletta. Ci sentiamo domani alle 12 per Obiettivo Salute Weekend. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.